La zanzara con Alessio Maurizi. Numero verde 824 0024 per intervenire in diretta anche questa sera, cari ascoltatori, e anche con l'SMS 349 238 6666 oppure scriveteci la zanzara at radio24.it. Siamo anche su Facebook, la zanzara. Giornata monopolizzata naturalmente dall'audizione del ministro dell'economia Tremonti sui provvedimenti del governo per arginare la crisi, e ci sono già un po' di mal di pancia. Avete sentito poco fa il presidente della Camera Fini ha detto allibito dalle repliche di Tremonti, l'opposizione non è molto entusiasta, ci sono dei mal di pancia però anche all'interno della maggioranza. Forza Sud, una dichiarazione di poco fa, dice non voteremo mai contro il Mezzogiorno. Ma iniziamo, andiamo per ordine con i titoli dei telegiornali, Sky TG24. Berlusconi sale al Quirinale dopo il faccia a faccia con Draghi. La ricetta anticrisi di Tremonti, tasse sulle rendite, licenziamenti più facili. Bossi parla di discorso fumoso, 4 del PDL non assicurano il voto. Anche l'opposizione ha consulto al Colle, Bersani e Casini convocati al Quirinale. Wall Street positiva da slancio alle europee, Piazza Affari chiude in rialzo. Collisione in mare davanti ad Ischia, in corso le ricerche di 2 marinai dispersi. Giovane ucciso in Brianza, 17enne accusato di omicidio volontario. Gli scontri in Gran Bretagna, Cameron non esclude l'interruzione dei social network. Dappertutto si dice così. Il ministro Tremonti verrà a portare delle proposte. Aspettiamo domani. Ma lei, diciamo, come sottosegretario all'economia avrà qualche notizia? È stato coinvolto da Sacconi, Tremonti soprattutto, ma anche lo stesso Berlusconi che sta guidando un po' queste ore? Guardi, io sto facendo il mio lavoro, su queste questioni se ne sta occupando il ministro. Quindi non l'hanno coinvolto direttamente? No, se ne sta occupando il ministro. C'è crisi dappertutto. Senta Cesario, ma quale, non so, ci dica quale sarebbe, se dipendesse da lei, la sua ricetta? Ma io non faccio nessuna ipotesi, domani il ministro dirà la sua proposta, le posso solo dire, adesso a parlare è facile, la demagogia si fa bene in una crisi così forte, abbiamo visto quello che è accaduto da poco con i mercati francesi, quindi è una situazione veramente difficile. E penso che in tutti i gruppi politici domani è importante che ci saranno tutti, che io so che verranno. La grande richiesta degli ascoltatori, vi abbiamo fatto risentire per chi non l'avesse sentita, risentire per chi l'ha già sentita, sentire per chi non l'avesse sentita l'intervista del sottosegretario Bruno Cesario, ex Partito Democratico, ex API, ex responsabile popolo e territorio, attualmente sottosegretario all'economia, che ieri sera si è praticamente avvalso della facoltà di non rispondere su tutta la linea. Gli abbiamo fatto varie domande, non sono un tecnico e per la verità si è sentito. Cos'è che ha detto? Risentiamo un altro passaggio. Però scusi Cesario, non mi lasci così nel vuoto, perché io altrimenti mi sento male. Mi dica lei, da sottosegretario all'economia, una sua piccola cosa, un suo punto io per intervenire in questo momento e risolvere la crisi. No, io non ho la competenza del ministro Tremonti, ne posso solo. Ma lei è sottosegretario, però mi scusi, non è che sta parlando con uno che. Ma io c'ho il ministro Tremonti, ne posso dire che. Io sono ottimista perché si sta lavorando bene. Insomma, la domanda è evidente a questo punto, è a cosa serve il sottosegretario all'economia Bruno Cesario in un momento del genere, in un momento difficile per l'economia. Sto lavorando su dei provvedimenti, ha detto, gli abbiamo chiesto quali, saranno pronti il 31 agosto. Vabbè, veniamo invece a quanto detto da Tremonti nella sua audizione in Parlamento. Insomma, le cose sono già emerse perché l'audizione di questa mattina, sentiamo solo per esempio il passaggio sui costi della politica. Tremonti ammette che ci si può lavorare, però a dire la verità poi non delinea niente di troppo concreto. Sicuramente dobbiamo intervenire con maggiore incisività sui costi della politica, credo che dobbiamo tornare su quella materia con l'impegno che non è solo riferito ai costi della politica in quanto costo dei politici, quanto prendono, ma anche quanti sono e soprattutto sono le complessità del sistema che, stratificate in tanti anni, hanno oggettivamente causato un effetto di blocco, di mano morta e di costo eccessivo. Niente, niente di concreto, ma forse non era la sede, però si sono lamentati un po' tutti di questa mancanza di concretezza di Tremonti, che poi ha toccato altri argomenti, le pensioni, le rendite finanziarie, all'ordine del giorno, almeno era nella lettera della BCE a Berlusconi, c'è anche il taglio degli stipendi pubblici, però Alfano, il segretario del PDL, lo esclude categoricamente. Il titolo della manovra è salvare i risparmi degli italiani, salvare il reddito delle famiglie, salvare il futuro delle nostre generazioni. Cito il caso del taglio ipotizzato agli stipendi nel settore pubblico, esclude talune ricette, o meglio, esclude che il governo accetterà alcuni consigli, come quello del taglio degli stipendi dei pubblici dipendenti. E se Bossi dice sul capitolo pensioni invece ci si può lavorare, è l'unico sul quale mi pare ci sia un'apertura della maggioranza che sostiene il governo e quindi anche Tremonti, ancora esponenti di primo piano del PDL come Lupi sulla patrimoniale, sulle rendite finanziarie sono categorici, no, non si può fare, sentiamolo ieri sera Lupi. La patrimoniale non ci sarà. Non ci sarà perché non è nello spirito, non è nella nostra concezione politica ed è un errore. Ci saranno, cioè, e ci dovranno. Sarà. La patrimoniale, per la patrimoniale non è alla Lega, un elemento che ci dovrà essere, che ci sarà nell'anticipazione. Allora sentiamo anche un po' di opposizione. Bersani dice facciamolo subito, dimezziamo il numero dei parlamentari. Vogliamo fare subito una legge costituzionale? Benissimo. Partiamo domani mattina e facciamo il dimezzamento del numero dei parlamentari. Da lì in giù ci occupiamo di regioni, comuni, accorpamento dei piccoli comuni, dimezzamento più delle province, dimezzamento delle società pubbliche, questioni dell'acquisto di beni e servizi della pubblica amministrazione, un pacchetto ragionevole di dismissioni e così via. E poi Di Pietro che insiste sulla richiesta di dimissioni. Per lui questa è la cosa fondamentale in questo momento. Ve ne dovete andare a casa, perché la mancanza di credibilità della vostra azione politica e governativa è un handicap per essere noi credibili agli occhi del mondo intero. Ecco perché noi insistiamo che, così come hanno fatto in altri paesi, i governi incapaci, i governi che si rompono i coglioni, come ha detto il suo ministro, perché il suo ministro l'ha detto, il suo collega l'ha detto, onorevole, ancora un minuto fa. No, io non so dove l'ha detto, non l'ha detto in un'aula parlamentare. Ma qua l'ha detto? Io non lo so dove l'ha detto. Te lo dico io, là. Sì, là. Sì, però lei, mi usi la cortesia, usi un linguaggio consono all'istituzione che rappresenta. Mi perdoni, Presidente, il ministro Bossi l'ha detto là. E in effetti Bossi aveva così commentato il vertice notturno con Tremonti, insomma c'erano state secondo Bossi delle rotture di C puntato, di coglioni diciamolo, Tremonti poi sollecitato su questo così risponde. Il ministro Bossi ha usato un'espressione che ora sarà oggetto di discussione tra noi due, ma voglio dire davvero... La domanda è: fate atti, li avete? Ha chiesto fate un documento, avrà un decreto? Cioè praticamente Tremonti ha detto, ha minacciato Bossi, adesso poi facciamo i conti, come abbiamo fatto un vertice notturno politico importante, tu poi vai in giro a dire ai giornalisti che ti sei rotto i... Vabbè, sentiamo anche Casini, anche lui si allinea a giudizi poco lusinghevoli su quanto detto da Tremonti, troppo fumoso. Io ringrazio per la cortesia il ministro Tremonti, non lo ringrazio per la sostanza, le devo dire la verità, mi auguro solo che lei abbia le idee così chiare che non ce le ha volute dire per non bruciare il decreto. Se fosse così avrebbe fatto bene, ma lo vedremo di qua a qualche giorno, perché effettivamente io avevo capito di più dalla lettura dei giornali di quanto abbia capito oggi, diciamo, dalle sue cortesi accenni a quelle che erano le tematiche. 800-24-00-24 il numero verde, cominciate a prenotare i vostri interventi, tra pochissimo adesso facciamo una pausa per il traffico. Come detto, tra poco ascoltatori, prima però salutiamo il nostro primo e gradito ospite, Giuseppe Scopelliti, presidente della Calabria. Buonasera. Buonasera. O dovrei chiamarla Peppe DJ? Ah, questo è un... Un suo secondo nome? No, è una fase, diciamo così, di pausa estiva in cui... Sì. Si realizza un po' di lavoro, un po' anche di un break, diciamo così, di divertimento e di relax, magari questo ci sta pure. Non perché pensa. Spieghiamolo a chi non sente RTL e non è a conoscenza delle sue performance da DJ su questa radio, ci racconti un po' che succede. C'è una postazione di RTL a Reggio, sul lungomare di Reggio, e lei interviene per... Questi ultimi 5 anni RTL... Sì. È arrivato in Calabria per 4 anni, lo ha fatto, diciamo, riempendo un po' la fase estiva con le intere trasmissioni in diretta da Reggio Calabria, quindi lanciando un messaggio estremamente positivo delle bellezze ieri della città e del divertimento e quindi di quello che era un po' la movida reggina e gli aspetti anche legati alla cultura e ai beni culturali. Oggi lanciando un messaggio per tutta la Calabria e quindi diventando sicuramente un momento di grande promozione, uno spot pubblicitario costante su questa radio, una radio che è stata prima di arrivare a Reggio Calabria per 15 giorni anche in Friuli Venezia Giulia, quindi è stata a Trieste, che ha fatto insomma un po' un percorso, un tour in giro per l'Italia. Infatti non c'è niente di male, può essere anche un modo per intendere... All'interno di tutto questo abbiamo costruito uno spazio per quanto riguarda un po' le eccellenze calabresi, quindi il mondo imprenditoriale, tutta una serie di iniziative importanti e prestigiose che danno una visibilità nuova al nostro territorio e extra queste vicende, diciamo così, insieme a Charlie Gnocchi e insieme a Alessandro Greco, abbiamo fatto per 5-6 giorni una presenza mia di circa un'ora, insomma 40 minuti. All'ora di pranzo, no? Più o meno. Sì, andava dalle 12 alle 13, insomma, abbiamo fatto questa iniziativa, questo forse probabilmente non è piaciuto a tanti o a qualcuno, insomma, al punto tale, insomma, di riportare notizie false e ovviamente fuorvianti, ma credo che questo... Ecco, lei così anticipa la mia domanda, perché devo dire che fin qua non c'è niente di male, uno può anche intendere la politica, anzi, come un modo di comunicazione importante, lei ce l'ha un po' questo pallino, no? Della cultura, della spettacolarizzazione, anche come veicolo anche della comunicazione politica, non è la prima volta che lei si presta a queste cose, ripeto, fin qua c'è niente di straordinario. Io penso che uno dei mali di questo paese sia proprio il politico visto in una sua figura rigida, del ruolo istituzionale, ingessata, che non piace sicuramente al cittadino. L'idea di un politico che riesce comunque ad essere dinamico, a fare anche cose che sono fuori dal ruolo istituzionale, pur rispettosi del ruolo istituzionale che uno riveste, credo che sia un qualcosa che rende anche più umano e più vicino al cittadino le istituzioni, altrimenti si crea quel distacco. Ma le faccio un esempio, questo sarà anche divertente: in questi anni con Charlie Gnocchi abbiamo sempre disegnato e immaginato delle magliette dal parmigiano reggino, visto che lui è di Parma, io sono reggino, a tutta una serie di altre cose, eppure piacciono, perché abbiamo stampato qualche anno fa ad esempio 500 magliette, in questi tre giorni sono state stampate le magliette. Vabbè, insomma, lei ha un suo seguito in queste performance, ma va benissimo. Fanno una serie di iniziative che creano anche un maggiore feeling con... Però la domanda vera, Presidente, è questa. Sì. Queste attività, che tra l'altro sono legate anche al concorso, credo, di Miss Italia nel mondo, sono state finanziate, come scrive per esempio Eugenio Furia sul Corriere della Calabria, con soldi della regione? No, guardi, noi abbiamo fatto un assestamento di bilancio a luglio in cui abbiamo recuperato delle risorse e sul tema della politica della famiglia avevo fortemente voluto inserire 10 milioni di euro per fare un'iniziativa a dicembre, l'atto dell'approvazione del bilancio regionale. Poi queste azioni non sono state messe in campo per una serie di iter procedurali farraginosi. Una parte di queste risorse sono state in assestamento rivisitate e quindi spostate per pagare gli stipendi del personale dell'AFOR, dell'ARSA e delle comunità montane e quindi anche al servizio delle politiche sociali. E poi è chiaro che questa cosa di Miss Italia nel mondo c'è sta, perché Furia scrive 1,5 milioni di euro tra questa performance di RTL, cioè non so, avete contribuito magari, questo può anche essere cofinanziare l'iniziativa, e poi 1 milione di euro per Miss Italia nel mondo, detratti perché lei parla di assestamento di bilancio, quindi c'è stato assolutamente no, cioè assolutamente non c'era una lira della regione? Ci sono i soldi, ma vengono in parte finanziate con risorse che sono legate all'utilizzo di risorse finalizzate a questo tipo di spesa. Ho capito, però le risorse quindi c'erano, perché lei prima ha detto di no, che non c'erano soldi della regione, invece ci sono. No, è chiaro che per fare Miss Italia del mondo abbiamo operato come regione con finanziamenti insieme alla RAI, abbiamo fatto anche noi una partecipazione. E va bene, questo è un fatto. Ma non sono, una cosa è dire che sono risorse per le famiglie che sono state sottratte, le famiglie bisognose, che è una speculazione della stagione dell'antipolitica, una cosa invece dire che vi erano delle risorse a cui si abbiamo attinto, che sono state che ovviamente... Però scusi, io non so se faccio parte dell'antipolitica, non mi ci ascrivo personalmente e volontariamente, però se lei mi dice che c'è stato un assestamento di bilancio, così l'ha chiamato, per cui una parte di questi fondi destinati alle famiglie indigenti non sono state spese per questioni, lei dice, procedurali, sono state invece dirottate su altri fondi, quindi non è che ci sia molto da smentire da questo punto di vista. C'è stato uno spostamento di risorse. C'è stato uno spostamento di risorse, ma era finalizzato all'utilizzo per quanto riguarda gli stipendi di questi lavoratori dell'azienda forestale, dell'ARSA, che è la nostra agenzia dello sviluppo in agricoltura, e delle comunità montane. E quindi abbiamo fatto un assestamento di bilancio finalizzato a questo tipo di iniziative. Nell'operazione complessiva sono rientrate delle risorse che erano, finalizzate a impinguare il capitolo del turismo, ma ad esempio RTL non rientra in questo tipo di operazione, perché i soldi di RTL erano già all'interno, del dipartimento. È una speculazione, la cosa più triste purtroppo di cui oggi dobbiamo parlare è che la speculazione viene fatta da un giornale che sicuramente è un giornale poco credibile sul nostro territorio, in chi ha un direttore del giornale. Il Corriere della Calabria. Io non voglio fare l'avvocato d'ufficio, perché non naturalmente no. Però le devo dire che le devo dire che alcune di queste cose, ce ne sono altre tra l'altro che vengono riportate per esempio sul Fatto Quotidiano di oggi, che però sono state riprese anche da Stella ieri sul Corriere, quindi che normalmente sulle cifre, sulle cose, perché le faccio la domanda Scopellitti, perché sa qual è il punto? È che questo contesto qua di crisi economica, di debito, di famiglie che non ce la fanno arrivare alla fine del mese, cambia un po' le carte in tavola. Cioè, voglio dire, quando voi avete approvato questa variazione di bilancio, chiamiamola così, avevate a mente delle priorità, magari adesso lei non lo rifarebbe forse, visto il contesto nel quale siamo. Lo rifarei perché l'operazione che abbiamo fatto, le ribadisco, dove dentro vi era non il progetto di RTL ma il progetto di Miss Italia del mondo, è per noi in termini di visibilità e di immagine per la Calabria un'operazione credibile. Ho capito, ma la visibilità però, scusi, non dovrebbe venire dopo rispetto alle esigenze primarie, per esempio, delle famiglie indigenti? Cioè, la visibilità può dare un ritorno in termini anche economici, però è un investimento che si fa nel lungo periodo. Non è diversa la priorità della regione che dovrebbe avere? Io credo che una regione che utilizza le risorse sia per fare la promozione turistica, sia per immaginare un intervento nel sociale, non ci siano difficoltà rispetto a una scelta, che è quella di... Insomma, lei rivendica questa scelta, che però in pratica ci conferma, anche se inizialmente aveva detto di no. Le volevo fare un altro paio di domande, perché a corredo di questo io leggo, siccome sa, in questo momento tutto quello che suona come sprechi e crescita del debito pubblico suona l'allarme rosso, si accendono 1000 spie, ed è giusto che sia così in questo momento. 164 dirigenti c'erano, ce ne sono altri 32 esterni da quando è arrivato lei, avrebbe sforato il tetto previsto da Brunetta, il 10%, voi siete al 19%. Guardi, all'atto dell'insediamento, del nostro insediamento, abbiamo fatto un ricambio degli ingenti analogi dello spoil system, perché io credo a questo meccanismo e l'idea di chi governa il compito di governare, di farlo con chi ovviamente condivide scelte, progetti e strategie rispetto a una burocrazia che spesso nel Mezzogiorno è stata la palla al piede della politica e quindi dello sviluppo e della crescita dei nostri territori. Noi abbiamo, dopo l'attuazione appunto della Brunetta, abbiamo ovviamente appena scaduti i contratti mandato a casa le persone e che risultavano, diciamo così, in aggiunta rispetto al parametro previsto dalla Brunetta, quindi abbiamo semplicemente preso atto e queste persone sono andate, ritornate agli enti di appartenenza o comunque sono andate fuori dall'amministrazione. Quindi soltanto. Quindi vi siete riallineati, è stato solo un momento temporaneo. Un rispetto di quello che diciamo così, la legge dello Stato, ma mi sembra che adesso, se non vado errato, c'è un allargamento e quindi una percentuale maggiore si sta optando, si è già realizzato un'ipotesi di allargamento, quindi come vede anche sotto questo punto di vista io non credo che questo sia il vero grande problema del paese. Nel Mezzogiorno abbiamo bisogno di classe dirigente, pensa che io ho fatto anche l'assessore anni fa e avevo dei dirigenti di settore con una spesa di 100 milioni di euro ciascuno di possibilità di spesa ed erano uomini che non avevano neanche una laurea in tasca. Questa è vabbè, la questo, vabbè, questo però senta, c'è un'altra cosa che mi pare che anche il sindacato dei quadri direttivi, non so, della regione ha sollevato, ed è questa spesa di 40.000 euro per un fotografo al momento dell'insediamento di Scopellitti. Guardi, per quanto riguarda questo aspetto, noi abbiamo un ufficio stampa composto da 6 persone che nella media delle altre regioni è decisamente inferiore alle altre regioni d'Italia, visto l'attività che svolge la regione su più fronti, sono anche, diciamo così, dei giornalisti che operano ovviamente non soltanto su quello che è il discorso della comunicazione, ma operano su più fronti, quindi hanno più ruoli e più, diciamo, niente da portare avanti all'interno della stessa amministrazione, e abbiamo anche tra queste 6 persone una figura di un fotocinereporter che ovviamente serve e utilizza questa sua conoscenza per creare un impegno all'interno dell'amministrazione. Insomma comunque lei non pensa che nei prossimi mesi in qualche guardi, io penso che sia molto più scandaloso in Calabria pensare che ci siano direttori di giornali che fanno questi articoli perché non hanno un dialogo con la mia amministrazione, perché ancora prima della mia amministrazione erano direttori di giornali che prendevano e percepivano soldi alla regione, capisce qual è il sistema? Allora fuori da queste logiche oggi c'è una regione che vuole governare e che vuole portare avanti un progetto ma il punto è governare allora, come? Perché mi scusi, io far risparmiare la regione e 300-400 milioni di mila euro magari o risorse rispetto a spot pubblicitari che venivano forniti da questi direttori di giornale attraverso le loro agenzie e che oggi sono rimasti fuori da questi meccanismi e quindi automaticamente oggi scalpitano e quindi pensano di abbattere. Sì, però allora Scopellitti, resti un attimo, resti un attimo in linea perché questa cosa degli spot non l'ho capita. Abbiamo le informazioni dai mercati finanziari, se lei resta un attimo con noi ci spiega ancora questa sua accusa nei confronti, non ho capito bene di chi, giornalisti in Calabria. Però prima, borse. In collegamento con Giuseppe Scopellitti, presidente della Regione Calabria, che stava, diciamo così, accusando il direttore del quotidiano, del settimanale, in questo caso Corriere della Calabria. Io però in questo non lo so, non vorrei entrare perché è una cosa che non mi interessa. A me interessa da questo punto di vista i fatti, Scopellitti, e quello che le vorrei chiedere è, poi lei dirà quello che vuole, non crede che la regione debba essere in questo momento di crisi del debito, di crisi economica, con le famiglie che non ce la fanno arrivare alla fine del mese, forse le priorità potrebbero essere riviste piuttosto che investire fondi pubblici sul Italia, Miss Italia nel mondo o in comunicazione o in comparsate alla radio, non ci possa o non ci debba essere un'inversione di rotta? Io penso che la mia regione, all'atto dell'insediamento al primo consiglio regionale utile, ha affrontato il tema dei tagli dei costi della politica un anno addietro, andando a mettere in campo da subito un risparmio di 5 milioni di euro, tagliando dei fondi a pioggia di contributi ad associazioni varie che erano state, diciamo così, individuate dal centro-sinistra poco prima delle elezioni e poi tagliando 1.250.000 euro rispetto anche agli emolumenti e ai costi della politica rispetto appunto ai consiglieri regionali. Abbiamo fatto un'azione molto incisiva sotto questo punto di grande rigore, abbiamo tagliato in Calabria oltre 300 leggi, abbiamo risparmiato qualcosa come 15 milioni di euro. Siamo una regione che sta andando a colmare i buchi sulla sanità, era risaputo, la regione aveva un buco enorme, quest'anno la mia amministrazione, io in qualità di commissario ho risparmiato 100 milioni di euro in soli 6 mesi nel 2010, da giugno 2010 al 31 dicembre 2010, stiamo risanando ancora di più il tema della sanità proprio in termini di risparmio e di efficienza e di buona sanità ovviamente da costruire. Questo è un tema che a noi sta molto a cuore e questo dimostra anche la scelta chiara fatta da questa amministrazione. Poi ci sono gli aspetti collaterali che sono quelli di una regione che deve risparmiare, deve costruire una buona azione e quindi deve fare, diciamo, dimostrare di essere un buon padre di famiglia, ma dall'altra ci sono degli investimenti in campo di marketing, di promozione, di valorizzazione delle nostre grandi risorse, perché non tanto non veniamo aiutati ovviamente dai mezzi di informazione, perché la Calabria è sempre vista e promossa in termini negativi purtroppo sul territorio nazionale, e abbiamo delle strategie da mettere in campo. Io ritengo che quella di Miss Italia, come altre iniziative, lo ricorderà ad esempio. Sì, sì, sono degne e degnissime. No, ma infatti no, io l'ho premesso, però siccome... Sì. Dei bronzi, no, scusi che la disturbo. Sì. Interrompo, ma anche lo spot dei bronzi, che può piacere o può non piacere, lei si ricorderà che sempre Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera fece una pagina intera per denigrare quella pubblicità, che trovò sul blog del Corriere della Sera risposte eclatanti in favore della nostra scelta. E il 30 di agosto noi andiamo in aula per prospettare un taglio dei costi della politica che ci porterà a regime a un risparmio del tra i 30 e i 40 milioni di euro. Quindi questa è sicuramente una buona notizia, almeno dal mio punto di vista. A me però interessano quelle famiglie indigenti, quei finanziamenti che sono stati, lei mi diceva, a questo punto però temporaneamente. Temporaneamente, non c'è dubbio, perché abbiamo avuto una difficoltà sotto l'aspetto procedurale. Sì. A quel punto, siccome i tempi si dilatavano, abbiamo immaginato un utilizzo di queste risorse per pagare gli stipendi, visto che c'erano le proteste dei forestali, dell'ARSA e delle comunità montane, con i sindacati abbiamo fatto più volte riunione, abbiamo trovato questo tipo di soluzione. Nel frattempo stiamo programmando e immaginando un disciplinare snello, utile. Sì. Però diciamo che dal punto di vista dell'immagine non è stato insomma un colpo da maestro, perché seppure per questioni procedurali, però diciamo distogliere dei fondi alle famiglie indigenti e finanziare attività come quelle, sa, poi lei può pensare male quanto vuole della stampa, ma uno fa 2 più 2. Comunque mi pare che sia stato tutto chiarito, almeno insomma, non so se vuole aggiungere qualcosa, per me è chiaro. No, a me è fatto piacere poter intervenire. Il problema di questo paese, e in Calabria questo è più accentuato, è un tema che io ho posto anche negli ultimi mesi in maniera prepotentemente, cercando di dare un segnale in maniera prepotente. Qual è il problema di questo paese? È il problema anche in parte di un'informazione che è finalizzata a interessi di personali. Noi abbiamo una situazione... No, guardi, l'informazione adesso io... lei parli con me, se vuole mandare messaggi ai giornalisti calabresi che la incalzano, non... In parte c'è un problema serio, da una serie di interessi che ognuno... e cerca di tutelare. Qui c'è una regione. No, ma qua ci sono solo delle domande che io le ho fatto, quindi, e delle risposte che lei ha dato. Guardi, altro non c'è. Io tratto spunto da articoli scritti da giornalisti che seguono le vicende calabresi, perché ovviamente noi qua da Milano abbiamo un altro punto di vista. Sì. Le motivo gli spunti polemici che emergono. Allora, il problema di fondo è che noi siamo qui e stiamo dando dimostrazione di determinazione, di volontà a dare delle risposte importanti. Credo questo l'ha già detto Scopelliti, mi pare che sì. Poi lo vedremo nel tempo, per carità. Insomma. Vabbè, certo, poi giudicheranno naturalmente gli elettori cittadini. È il nostro impegno, è l'impegno nostro importante in una terra difficile e complessa come la nostra. Sì, sa, l'informazione serve anche proprio per fare luce su quello che viene fatto e eventualmente anche non fatto, o fatto bene o fatto male, a seconda dei punti di vista, dalle amministrazioni e anche dalla sua e dalla regione Calabria. Grazie Giuseppe Scopelliti, grazie, buona serata. Grazie a lei, arrivederci. 18:42, cari ascoltatori, 824-0024. Devo dire però che a me non mi ha convinto moltissimo alla fine il governatore Scopelliti sul fatto che tutti questi investimenti che si fanno, secondo me, non sono delle vere e proprie priorità. Lasciano un po' il dubbio che il fiume del debito pubblico statale o regionale tenda a ingrossarsi, anche se lui ha detto che molte spese sono state sono state tagliate. Si potevano tagliare forse anche queste altre di cui abbiamo parlato questa sera. Roberto da Padova, il primo ascoltatore, buonasera, prego. Buonasera. Allora, diciamo questo, che io vorrei fare un intervento, spero brevissimo, anche perché cioè, 3 minuti so che date più o meno. Io sono un imprenditore, faccio l'imprenditore da 25 anni, sono figlio di un dipendente statale. Ho creduto nel fare qualcosa in più nella mia vita e le dico la verità, quello che c'è bisogno oggi in Italia non è sentire tutte queste chiacchiere che, grazie a Dio, anzi, questa trasmissione dovrebbe essere messa in tutte le scuole, dovrebbe essere messa perché la gente ascolti esattamente le parole che dicono queste persone. Io dico solo una cosa, che parlano di evasori, ma quali evasori? Quali sono gli evasori? Ci sono milioni di persone che non riescono ad andare avanti, milioni di imprenditori che non riescono ad andare avanti, stretti alla pressione fiscale, per non parlare di quella creata dalle banche. Parlano di tasse, ma cosa pretendono? Si paga la circolazione, si paga la benzina e tasse, si pagano le autostrade, si pagano contributi. Un'azienda come la mia, che ha 500 consulenti in Italia, ho costruito un'azienda lavorando giorno e notte. Sono stato costretto a vendere tutto per mantenere i dipendenti. Dico sempre in Confindustria, quando vado e dico sempre, fateci pagare pure i dipendenti come li paghiamo oggi dal punto di vista del lordo, ma date più netto ai dipendenti. Se la base non riceve soldi è inutile parlare, questa crisi non finirà per i prossimi 10 anni e questo debito pubblico, per quanto ne parlino i grandi economistici, nessuno dice la verità, questo debito pubblico non potrà essere abbattuto. Grazie Roberto, apocalittico devo dire, però insomma il suo punto di vista, grazie. Sentiamo Massimo da Lecce, buonasera. Salve, buonasera. Prego. Buonasera, io volevo un attimo rifarmi sull'intervento di Cesare di ieri e di oggi, in realtà avevo telefonato ieri, mi sono riprenotato oggi, sì. Nel senso che io inviterei il ministro Brunetta, io sono un dipendente pubblico, inviterei il ministro Brunetta a verificare le performance dei dipendenti pubblici, così come fa la mia amministrazione con me, visto che tutti i dipendenti pubblici, io sono il primo della lista, sono lavativi, assenteisti eccetera. E ieri il sottosegretario Cesari ha dato un'ampia evidenza della sua incompetenza a quel ruolo. Io invito il ministro Brunetta a licenziare il sottosegretario Cesari, visto che Non è Brunetta il datore di lavoro, ma è, in questo caso è Berlusconi, perché è il capo del governo. Certamente, tecnicamente, ma Brunetta, sì. Mi scusi, certamente, ma Brunetta fa parte della... ma era una battuta, è chiaro il senso di quello che lei dice. Ieri io ho detto Cesario si è avvalso, diciamo così, della facoltà di non rispondere. Traffico. Ben ritrovati, 824 0024, con i vostri interventi staremo insieme naturalmente come ogni sera fino alle 20:30, titoli del TG2. Dopo una giornata in altalena, sprint finale delle borse europee che recuperano e passano al segno più. Bene, Piazza Affari che chiude a più 4,1, apertura positiva anche a Wall Street. Il presidente della Repubblica Napolitano è rientrato a Roma al Quirinale, incontro con Berlusconi, Tremonti e Letta, in serata riceverà Bersani e Casini. Il ministro Tremonti presenta alla Camera le linee guida del governo per affrontare la crisi, sarà una manovra forte, pressing dell'opposizione, nessun elemento concreto. D'estate l'abbronzatura è quasi la regola, c'è chi esagera e gli esperti dicono attenzione alla dipendenza da lettino solare, è simile a quella da alcol e droghe. Tornerò in ginocchio da te. Il riavvicinamento tra Fini e Berlusconi, titolo di Libero oggi, che fai? Mi riprendi? Articolo di Maria Giovanna Maglie che parla di un incontro che c'è stato tra Fini e Berlusconi, un incontro a cena dopo le due strette di mano che c'erano state alla Camera in occasione del discorso del Premier, che sono l'argomento sussurrato vero della dolorosa politica di crisi agostana, dice Maria Giovanna Maglie, che poi aggiunge potete rubricarlo sotto il titolo sarcastico ed evocativo che preferite. Che fai, mi riprendi? O il ritorno del figlio prodigo, tanto tuonò che piove, molto rumore per nulla, la situazione è grave ma non è seria. Oppure potete accettare che politics is politics, specialmente ai tempi della peggior crisi economica mondiale che si potesse prevedere. Fatto sta che Silvio Berlusconi e Gianfranco Fini sarebbero sul punto di siglare un accordo che ha del clamoroso. Beh, in effetti sarebbe davvero clamoroso. Si parla di questo incontro, ce ne sarà un altro, dice Maria Giovanna Maglio sul Libero, domani. Che si incontrino Berlusconi e Fini è possibile, che ci sia un riallineamento politico, a questo punto sarebbe in questo momento forse reso possibile dalla crisi, ma sarebbe davvero un fatto clamoroso. Riprendiamo con i vostri interventi, cari ascoltatori. Chi abbiamo? Marco da Bruxelles, buonasera. Tra l'altro ieri sera un ascoltatore aveva chiuso il programma dicendo: parlateci della crisi del Belgio, è vero che il Belgio è senza governo? E io ero rimasto senza parole perché non ricordavo la fine della crisi del Belgio, ma credo che, controllato, il Belgio è ancora senza governo. Sì, guardi, il Belgio è senza governo ormai da più di un anno, c'è stata una dimostrazione dei cittadini qualche mese fa, ma sono ancora in alto mare. Le dico solo una cosa, la classe politica belga è veramente pietosa. Le dico solo che un rappresentante del Partito Fiammingo Cristiano si è presentato a una ricorrenza, si chiama Yves Laterme, e un giornalista della TV di Stato gli ha chiesto di cantare l'inno nazionale belga, e lui ha cantato sì l'inno nazionale, ma quello francese, la Marsigliese. Vabbè, questi problemi in Belgio ci sono, però è vero che l'economia in Belgio sta andando piuttosto bene, leggevo oggi da qualche parte, appunto, nonostante la crisi politica, sembra quasi voler dire che governo o non governo, quello che conta poi sono i numeri, l'economia belga tira. A mio parere, diciamo che il Belgio è spaccato in due, cioè la parte nord fiamminga va molto meglio economicamente, perché ha un altro tipo di governo, perché la gente si rimbocca le maniche, non c'è un'assistenza. Sì, però anche l'effetto della Germania, qualcuno dice che tira. Può essere, comunque può non essere, credo però che c'è una grave crisi non era per sud, questo che ci aveva chiamato. È governato dal Partito Socialista, che usa la politica delle sovvenzioni, cioè qui si parla di chômage, vuol dire che se lei perde il lavoro... Disoccupazione. Senta Marco, ma lei aveva chiamato per dire qualcos'altro sull'Italia? Sì, io ho chiamato per dire velocemente questo. Io sono d'accordo con quello che mi sembra di capire sia l'opinione degli italiani che telefonano alla sua bellissima trasmissione, complimenti. Cioè dicono: abbiamo una classe politica incompetente. L'imprenditore che ha chiamato prima ha detto esattamente quello che penso. Cioè noi italiani, io sono convinto che vivo all'estero, lavoro all'estero e lo vedo da qui, quindi ho una prospettiva diversa. Noi siamo persone che meriterebbero una classe politica competente, ma non ce l'abbiamo, perché purtroppo quelli che si danno alla politica non hanno la competenza di poterlo fare, a parte alcuni, quei pochi diciamo. Perché altrimenti non si spiegherebbe come mai. Io ritengo che noi italiani siamo molto in gamba, siamo bravi e avremmo bisogno di una classe politica che veramente desse l'esempio. Grazie, ma Marco, abbiamo, grazie. Perché qui a Bruxelles, per esempio, che fino a pochi anni fa guadagnavano molto, hanno avuto gli stipendi abbassati perché l'Europa li ha fatti abbassare e hanno dato un po' l'esempio. In Italia questo non accade. Poi le dico che tante volte ci si trova di fronte agli italiani che lavorano, si danno affari dal sud e nel nord, e una classe politica che non corrisponde a quello che è l'italiano, perché guardi, io ho la convinzione da qui, lo dico da qui, che noi siamo migliori della classe politica. Questo non lo so, questo non lo so. Grazie Marco, le dedichiamo allora un altro passaggio dell'intervista di ieri del sottosegretario Bruno Cesari, non so se lei, sottosegretario all'economia Cesari, non so se si riferiva anche a questa, anche a questo quando parlava della classe politica. Certo è che ieri Cesario ha fatto un'impressione davvero disarmante. Però non si è sbottolato su nulla Cesario, lei in queste ore difficili, lei sottosegretario all'economia, niente. Le pensioni, bisogna intervenire sulle pensioni? Ma io non parlo perché anche una parola di una persona che non è così importante può significare molto. Quindi io non parlo, aspettiamo domani. Questo era ieri, naturalmente, aspettiamo domani, era riferito all'intervento di Tremonti. Non parlo, ha detto Cesario, sembrava che fosse un interrogatorio, ma non lo era naturalmente. Pasquale da Catanzaro, buonasera. Buonasera. Prego. Io sono da Catanzaro e sono calabrese. Sono furibondo con il nostro Presidente della Regione. Il nostro Presidente della Regione dimentica che abbiamo dei consiglieri regionali che prendono 13.000 euro al mese e che i suoi concittadini hanno un reddito pro capite medio di 590 euro al mese. Il nostro Presidente della Regione dimentica che abbiamo una sanità in ginocchio e puntualmente i calabresi devono prendere un treno, partire e andare fuori per essere curati decentemente. E sta facendo tagli sulla sanità perché è stata gestita maldestramente, la sta gestendo maldestramente lui, è stata gestita maldestramente dal centro-sinistra prima. Lui dimentica che il mare calabrese è in condizioni oscene. Quello è il turismo in Calabria, mica le signorine che fanno vedere le gambe. Allora che avesse per favore un pochettino di educazione e di rispetto nei confronti dei calabresi, che non siamo tutti imbecilli. C'è gente che attesta, io sono un ingegnere, faccio fatica a trovare lavoro. Grazie e mi scusi. Non c'è niente da scusare. Grazie a lei, Pasquale. Da Catanzaro, l'intervista a Scopellitti, il presidente della regione, evidentemente poi scatena qualche reazione. Luca dalla provincia di Siena. Sì, pronto? Prego. Senti, salve. Avevo chiamato ieri sera, volevo solo parlare a proposito di queste misure del governo anticrisi che mi sembrano il revival. Se ha di la voce, però le chiederei di toglierlo, sì, perché sì. Si sente maluccio, sa Luca? Se... no, mi sa che è il cellulare che fa male. Ah, il cellulare. No, allora finisca. Ora, sì, sì. Questo ero per la strada, stavo tornando a casa dal lavoro, quindi aspetti, cerco di una piazzola dove fermarmi. Vabbè, mentre Luca cerca la piazzola, lo ripeschiamo tra un attimo, se no ci fa un incidente in diretta. No, sto scherzando, assolutamente no. Giuseppe dalla provincia di Taranto, Luca lo risentiamo dopo. Giuseppe, buonasera. Sì, buonasera a lei. Sì, prego. Io stavo ascoltando il presidente della Calabria, il sottosegretario all'economia. Non lo so come gli italiani ancora non riescono a reagire ad avere questa classe politica così, che non ha proprio il senso della vergogna. Un sottosegretario all'economia che non sa dirci qual è la politica economica del suo governo e quindi ci dovrebbe dire perché percepisce gli stipendi senza produrre niente, no? Si parla tanto di produttività, vediamo la classe politica cosa produce. Tremonti secondo lei non produce niente? Ma Tremonti mi sembra un piccolo alchimista che si diletta, no? Che si diletta con il misurino e il bilancino a cercare di tenere in equilibrio determinati conti. Ma sì, però la situazione non è semplice. Cioè Tremonti si barcamena politicamente all'interno. Abbiamo fatto sentire anche alcuni interventi di politici che escludono. Lui dice facciamo la patrimoniale e un politico dice no, non si può fare. Dice facciamo le pensioni. Ovviamente, allora se il malato è grave, no, la terapia deve essere drastica. O sono capaci di adottarla la terapia, o vanno a casa, no? Per il senso di vergogna di non riuscire ad applicare una terapia adeguata, credo. Grazie Giuseppe. Abbiamo recuperato Luca che stava andando nella piazzola per parlare più liberamente al telefonino. Prego. Sì, salve, scusi l'attesa. No, niente, volevo parlare di queste misure del governo anticrisi, sì, che mi sembrano più che altro un remake di una farsa di anni fa, di una commedia di anni fa, visto che sono sempre le stesse promesse ripetute da quando... Beh, sì, questo un po' sì, questo un po' sì, si parla sempre delle stesse cose, però sai, i capitoli sono quelli, d'altra parte i capitoli sono sempre quelli, non è che... Piuttosto i capitoli sì, sono sempre quelli, ma sono le stesse persone che le ripetono, ecco il problema. Questo anche è vero, quindi quindi alla fine c'è anche questo il problema della credibilità, che alla fine se le stesse persone ripetono le stesse cose, alla fine qualcuno non ci crede, non è che si può imbrogliare tutti nello stesso sempre, diceva qualcuno di migliore. Va bene, grazie, grazie. Niente, arrivederci. Direi che siamo arrivati alla pausa, facciamo il giornale radio, sì, che ci sono i colleghi della redazione che aspettano e poi torniamo tra pochissimo all'824 0024 con i vostri interventi in diretta. Numero verde 824 0024 per intervenire in diretta anche questa sera, cari ascoltatori, potete scriverci anche al 349-238-6666, la zanzara @radio24.it, questa sera abbiamo un po' trascurato Facebook, ma c'è anche quello, la zanzara, e allora riprendiamo innanzitutto con i titoli di Sky TG24. Emergenza economica, napoletano al colle vede Berlusconi e l'opposizione. Piano anticrisi, la ricetta di Tremonti, tassare le rendite e licenziamenti più facili. Bossi gelido, dal ministro parole fumose, malumori nel PDL in quattro, minacciano il no. Bersani duro, il governo non ha idee, Casini, il paese è di fatto commissariato. Le borse volano dopo una seduta all'otto volante, Milano chiude a più 4%. La BCE lancia l'allarme crescita e ammette in Italia la ripresa è stata debole. Torna la calma in Inghilterra, ma Cameron minaccia, pronti a bloccare i social network. Napoli cargo, sperona peschereccio nel golfo, fino al tramonto le ricerche dei due dispersi. Ucciso in Brianza, l'accusa è omicidio volontario, la mamma della vittima, no all'odio. Certezze russe per la stampa, Eto'o ha firmato per l'Ajni per 20 milioni l'anno. Devo dire che c'è qualcosa che non mi torna tra il fatto che si dice Tremonti è stato fumoso e il fatto che già molti fanno dei distinguo sulle proposte di Tremonti, questo no, questo no, questo no, questo no. Cioè o è stato fumoso e allora non si può già dire no, oppure in realtà non è stato fumoso, ha detto delle cose che qualcuno non voleva sentirsi dire, per esempio. Titoli del TG3. Berlusconi da Napolitano, con lui Tremonti e Gianni Letta. Prima di Ferragosto Consiglio dei Ministri straordinario per varare le misure. La strategia anticrisi secondo Tremonti, tasse sulle rendite, licenziamenti più facili, pensioni, ma ancora non si spiega come si interverrà. Bossi, Tremonti fumoso e poi attacca Draghi, vogliono far cadere il governo, dissenso anche nel PDL di Forza Sud. Fini sono allibito, Bersani governo senza idee, senza compattezza, Casini ho capito di più leggendo i giornali, Di Pietro nuovo esecutivo. Forte ripresa delle borse dopo i crolli di ieri, Milano la migliore d'Europa, martedì vertice Sarkozy, Merkel, la Banca Centrale Europea troppo lenta all'economia italiana. I migliaia scatenati sulle reti, commenti sagaci sul menù del Senato con gli spaghetti e le alici ad 1,60 euro e sui tagli agli stipendi degli statali. Bloccheremo i social network, se commetteranno altri disordini, annuncia il premier Cameron, metà degli imputati è minorenne, c'è anche la figlia di un milionario. Ma lei, diciamo, come sottosegretario all'economia avrà qualche notizia? È stato coinvolto da Sacconi, Tremonti soprattutto, ma anche lo stesso Berlusconi che sta guidando un po' queste ore? Guardi, io sto facendo il mio lavoro, su queste questioni se ne sta occupando il ministro. Quindi non l'hanno coinvolto direttamente? No, no, se ne sta occupando il ministro. Ha fatto furore l'intervista del sottosegretario all'economia Bruno Cesario ieri sera qua ai microfoni della Zanzara. Cesario si è avvalso della facoltà di non rispondere e non aveva risposte assolutamente su nulla. Lui, sottosegretario all'economia da pochi mesi, da quando c'è stato il rimpasto che ha visto l'ingresso dei responsabili al governo. Ancora un passaggio di Cesario. Però non si è sbottolato su nulla Cesario. In queste ore difficili, lei, sottosegretario all'economia, niente. Non so, le pensioni, bisogna intervenire o no sulle pensioni? Ma io dico, guardi, io non parlo perché anche una parola di una persona che non è così importante può significare molto. Quindi io non parlo, aspettiamo domani. Lei ha detto che è al lavoro, no, in queste ore? Sì. Scusi, ma cosa sta facendo? Aspetta, allora? Io sono stato in ufficio a lavorare su vari provvedimenti. Ma ci faccia un esempio di questi provvedimenti. Pronto? Mi sente? Sì, no, e dicevo, ci faccia un esempio di uno di questi provvedimenti per darci l'idea di come si sta muovendo il governo. Guardi, sulla manovra, l'ho detto che io non sto lavorando, io sto lavorando sui provvedimenti saranno presenti nelle commissioni convocate il 31 agosto. Io sicuramente non sono un economista, ma le posso assicurare che i risultati, io sto lavorando tantissimo in forno. Questo avveniva ieri alla vigilia dell'audizione di Tremonti. Veniamo ad oggi. La lettera della BCE al governo italiano per Bossi è un tentativo, o potrebbe essere interpretato come un tentativo per far saltare il governo addirittura. La lettera, tutto il casino che hanno fatto uscire, temo che la lettera sia stata fatta a Roma, temo che sia un tentativo, solo un tentativo, di far saltare il governo. La lettera è stata fatta a Roma, dice Bossi. E invece Di Pietro vuole chiarezza sulla lettera. Fateci vedere questa benedetta lettera, hanno detto in molti, qualcuno anche ieri, all'incontro tra il governo e le parti sociali. Di Pietro. Oggi ci ha detto una sola cosa di nuovo, che è stato commissariato dalla BCE. Allora la prima cosa che noi le chiediamo è questa: tiri fuori questo documento di commissariamento. Non ci venga a dire che è un documento confidenziale. Lei non c'è mica andato a letto con la BCE che c'ha la confidenza. Cosa avete fatto stanotte? La BCE le ha mandato un documento e non le ha mandato a lei in quanto ministro o amico, gliel'ha mandato a lei in quanto esponente del governo, e lei come esponente del governo al Parlamento deve dirci e darci il documento della BCE, perché vogliamo sapere fino a che punto l'Italia è un paese ancora sovrano e da che punto questo paese è stato definitivamente commissariato. Dopo le parole di Tremonti, alle 15.04 è uscita un'agenzia che dice siamo quattro parlamentari del PDL e il nostro voto non è scontato alle misure che abbiamo sentito, almeno nell'esposizione di Tremonti. Abbiamo convocato uno di loro, Giorgio Stracquadagno del PDL. Buonasera. Buonasera a lei e agli ascoltatori di Radio 24. Stracquadagno, come mai non siete stati convinti da quello che ha sentito di Tremonti? Beh, l'abbiamo spiegato nel comunicato. Sì, lo spieghi anche agli ascoltatori, sì. Certo, era solo l'introduzione questo. Il ministro ha esposto le ragioni del vincolo costituzionale del pareggio di bilancio, no? E ha fatto anche riferimento a un preciso progetto di legge, che è quello che ha come prima firma quello del senatore Nicola Rossi, su cui tutti e quattro noi concordiamo. E quel documento dice, quel progetto di legge dice che per Costituzione dobbiamo avere il bilancio in pari, ma dice anche che dobbiamo avere un limite alla spesa pubblica e la fissa nel 45% del prodotto interno lordo, e questo equivale ad avere anche un limite alla tassazione, perché non può andare oltre ovviamente quel valore. Oggi noi siamo a una percentuale di spesa pubblica sul PIL del 52%, e questo è un dato di consensus, tutti quanti concordano su questo. Ora il tema che noi dovremmo sviluppare è come scendere dal 52 al 45, non ne vedo altri, perché il pareggio di bilancio in sé non è una cosa buona nel momento in cui dovesse per qualche ragione assorbire porzioni crescenti del PIL. Cioè quello che è preoccupante è quanto di spesa pubblica, quanto la spesa pubblica cresce. E siccome da questa premessa del ministro noi ci attendevamo la conseguenza di discutere appunto come, di quali riforme erano necessarie nell'occasione della crisi, aver sentito che si parla di misure che sono quasi tutte spostate sul lato dell'incremento della fiscalità ci ha reso, come dire, francamente delusi rispetto alle aspettative. Siamo convinti, sì, che la crisi sia l'occasione, cioè, per voi fare, vedete, quelle riforme. Voi vedete troppe tasse patrimoniali, tasse sulla rendita finanziaria e quindi aumenti di entrate ancora, aumenti e non tagli. Voi volete noi vedere i tagli. Seguiamo. Noi vogliamo vedere riduzioni strutturali della spesa, perché il punto è che possiamo trovare anche i 20 miliardi che mancano per pareggiare il bilancio nel 2013, ma nel 2014 cosa faremo? Renderemo queste tasse permanenti? E possiamo pensare che un incremento di tassazione sia ulteriormente sopportabile dal nostro sistema produttivo? O che invece questo non ci condanni via via a perdere capacità produttiva anche ricchezza e lavoro? E questo è un punto cruciale. Però adesso le chiedo, secondo lei perché Tremonti si è sbilanciato, secondo lei, dal suo punto di vista, troppo sulle nuove entrate fiscali? Però la domanda che io le faccio è questa: non crede che si è parlato di un clima di coesione, della necessità di fare sforzi da tutte le parti, sulle pensioni, quindi per i lavoratori, sul capitale, e quindi anche sulle rendite finanziarie, magari anche un po', come dice lei, di dimagrimento dello Stato. Cioè un accordo che contempli un po' tutto, che mi sembra che è quello che ha detto Tremonti. Poi bisognerà vedere quali misure andranno in porto e quali no. Guardi, io sono sto a quello che leggo dalle dichiarazioni ufficiali, e quando leggo che al tavolo con le parti sociali c'è qualcuno che dice che non si può toccare previdenza, pubblico impiego e sanità, dico che cosa possiamo toccare? Nulla, perché questi sono i tre grandi comparti della spesa pubblica. O noi ci poniamo la prospettiva del futuro, che vuol dire capire come possiamo sostenere, per esempio, a un invecchiamento crescente, i costi di una sanità crescenti. Oggi sul Corriere della Sera c'era un articolo di un economista, peraltro non che non fa riferimento al Popolo della Libertà, ma mi pare della sinistra riformista, che dice: adottiamo un modello di partecipazione alla spesa sanitaria simile a quello svedese. Non mi pare così, come dire, macelleria sociale. Però di questo dovremmo parlare, non di dove andare a trovare 20 miliardi di euro nel giro di una settimana, perché questo ci riporta nel buco nero della tassazione che insegue la spesa, mentre invece dobbiamo rovesciare la nostra prospettiva, tutto qua. Pensavamo che partire dalla costituzionalizzazione del pareggio di bilancio come elemento di virtù e scegliendo anche un vincolo alla tassazione, come nella proposta di Nicola Rossi, fosse un buon inizio. Senta, ma questo vostro, diciamo, dissenso, viste le carte che ha scoperto fino ad ora non Tremonti, non è un dissenso fino adesso, abbiamo soltanto avete fatto titolare le agenzie segreto. Che non voterete. No, sarà un dissenso. Abbiamo detto che il voto non è scontato. Non è scontato, sì, no, ha ragione, non è scontato. Non è scontato per il contrario. No, ha ragione, il voto non è però, scontato. Però scusi, Sraguadagno, le parole hanno anche una loro importanza. Cioè, se lei mi dice il voto non è scontato, vuol dire che... però vuol dire che fino ad ora non è stato convinto, perché se fosse stato convinto il voto sarebbe stato scontato. Ecco. Ma siccome dobbiamo vedere ancora le misure di questo decreto, e questo decreto deve essere ancora assunto, io confido che aver dato un warning al Ministro dell'Economia sulla direzione di marcia che noi chiediamo possa essere utile per giungere a quella, come dire, a quel elemento condiviso, a quel punto di equilibrio nel quale non ci siano solo tasse ma ci siano anche riforme. Poi ognuno può avere l'idea che crede sul fatto di avere più o meno tasse, però la sensazione che io ricavo da quello che lei dice è un po'... Cioè lei pone delle condizioni a Tremonti, che è poi quello che fanno anche i sindacati quando dicono no, le pensioni non si toccano. Lei dice no, la patrimoniale non si mette. Non crede che andando di questo passo il lavoro di Tremonti diventi impossibile? O di chi per lui? Io credo che esista un limite a qualunque decisione dal punto di vista della politica che sia il rispetto degli impegni assunti con gli elettori. Non possiamo pensare di aver vinto le elezioni con un programma che va in una direzione, che andava nella direzione, va nella direzione delle riforme e della ristrutturazione della spesa dello Stato, e poi riproporci con una ricetta che è sempre la stessa. Beh, oddio, Sraguadagno, però ieri l'ha detto Gianni Letta per tutti, ha detto... la situazione è cambiata in maniera radicale e siamo pronti a tutto. Certo, infatti dobbiamo essere pronti a, per esempio, innalzare l'età pensionabile a 67 anni e sin da subito, e non aspettare il 2030. Questo dovremmo essere pronti a farlo, come dovremmo essere pronti a privatizzare ampi comparti della pubblica amministrazione e con esso chi vi lavora. Con essi con chi li lavora. Abbiamo 300 miliardi di euro di possibili privatizzazioni di servizi pubblici locali. Questa impostazione che sono oggi un potenziale di riduzione del debito significativo. Non vedo perché non se ne possa nemmeno discutere. Ma secondo lei questa impostazione data da Tremonti, Berlusconi non la condivide, quello che si sa più o meno, no, delle sue posizioni? Guardi, io so che il presidente Berlusconi non ha mai condiviso un'impostazione che porti all'innalzamento della pressione fiscale. Ecco, ed è evidente che noi non possiamo essere il governo della patrimoniale, perché questo ci farebbe perdere non come dire, un appuntamento qualunque, ma ci farebbe perdere la faccia definitivamente rispetto al nostro elettorato. Ma in questo momento è più importante, scusi, sì. No, io è, più, è importante perdere la faccia oppure salvare il paese, mi scusi, perché uno può anche dire coincidono. Uno può anche dire siamo stati eletti per fare un programma, sì. La mia convinzione sì. è che innalzare ulteriormente le tasse e innalzarle sostanzialmente sulle imprese, perché lì andremo a sbattere, o sul perché il, mi perdoni, il patrimonio sì. che cos'è? Il patrimonio è o risparmio o impresa, non conosco altre forme di patrimonio. Non è, il patrimonio non è qualcosa che preesiste, cioè non siamo in epoca di latifondo, mi spiego? Ma la seconda casa, la terza casa, la casa al mare, io ho sentito anche Alemanno. La seconda casa è una forma di risparmio. Il sindaco di Roma Alemanno dice bisogna avere coraggio, bisogna farlo in questo momento perché... Guardi che la seconda casa è già tassata con una sì. piccola patrimoniale che si chiama ICI. E ulteriormente noi se aumentiamo la tassazione su quelli che sono già vessati abbiamo 1 milione di aziende che ritengono di aver subito vessazioni dall'Agenzia delle Entrate e da Equitalia. Senta, ma tornando al discorso di prima invece Non è che aumentiamo la nostra capacità produttiva aumentando la tassazione, forse la diminuiamo e abbiamo un problema di crescita. Certo, questo è vero, questo è evidente, il problema di crescita, però abbiamo anche un problema di tappare una falla. Guarda, io non mi preoccupo del consenso elettorale, mi preoccupo del fatto che questo è un paese che ha il 52% di spesa pubblica rispetto al PIL e che la vede crescere perché cala il PIL. Però a questo punto la spesa pubblica, quindi siamo in un circuito vizioso. Io però non ho capito a questo punto chi è che tira le fila, perché lo chiedo a lei che è onorevole, ascoltato credo nel PDL, ieri abbiamo intervistato il sottosegretario all'economia Cesario, forse ne avrà sentito un passaggio anche lei, era all'oscuro. Ma lei non poteva chiedere al sottosegretario ieri di anticipare cosa ma almeno di darmi la sua ricetta, ma lui non si è voluto, io ho detto si è avvalso della facoltà di non rispondere, non sapeva sinceramente straquadrato assolutamente nulla. Ma la domanda è un'altra, chi è che tira le fila? Perché se Tremonti ha dato questa impostazione che una parte di voi non condivide, guardi, sarà Berlusconi. Il governo è al lavoro, so che ci sono stati incontri in queste ore anche con il governatore della Banca d'Italia, so che da più parti si è parlato anche, e le avete scritto, parlato anche voi di agenda Draghi come una dei possibili delle agende di riforma di riforma economica e di riforma fiscale di questo paese. Ora ci sarà un mix di misure, le valuteremo. Quello che noi abbiamo voluto intendere con quel comunicato e che io ribadisco è che non possiamo pensare che il voto, che il nostro voto, e penso che il voto di molti parlamentari del Popolo della Libertà, così penso che lo stesso valga per la Lega, quando Bossi ha definito confuso l'intervento di Tremonti, non penso che abbia detto cose molto diverse da quelle che stiamo dicendo noi. Ecco, non possiamo pensare che sia, come dire, un voto per a prescindere. Va bene, va bene, grazie, chiarissimo, chiarissimo. Grazie Giorgio Straquadanio, lo ringraziamo, siamo un po' in ritardo sulla borsa e poi tra pochissimo di nuovo con gli ascoltatori. 824 0024, cari ascoltatori, con i vostri interventi. Prima due notizie velocissime nell'elenco delle dichiarazioni di giornata. Tremonti, incontro di oggi positivo e costruttivo, così avrebbe detto poco fa all'Ansa a proposito del dibattito parlamentare che c'è stato oggi dopo le sue dichiarazioni, che per molti sono stati deludenti. La segretaria della CGIL, Susanna Camusso, la libertà di licenziare sarebbe uno schiaffo ai giovani. Andiamo con i vostri interventi, abbiamo Sandro che ci chiama da Milano, buonasera. Sì, buonasera. Prego. Vorrei dirle alcune cose, quello che io direi Berlusconi alla sinistra, ai sindacati e a tutta la gente, in un minuto. A Berlusconi direi che se fa manovre impopolari, salvando l'Italia, non deve aver paura di perdere le elezioni prossime, casomai è il contrario. Secondo, alla sinistra, se hanno la soluzione semplice per eliminare l'evasione fiscale, perché non l'hanno tirata fuori anni fa? Secondo me la sinistra, come tutti i politici, non hanno interesse che il fisco vada a guardare i loro conti correnti, più che i miei e i suoi e quelli della gente comune. I loro conti correnti è meglio che il fisco non li guardi. Ai sindacati direi che devono convincersi, come sanno benissimo, ma fanno solo un po' di scena, che è meglio lavorare un anno in più, fare un piccolo sacrificio oggi che dà fastidio a tutti, ma salvare il salvabile. spero che questo... Sono tutte cose ovvie, ma non lo so fino a che punto... Grazie Sandro, lei ha avuto una parola per ognuno. Grazie. Io vorrei dare anche quest'altra notizia, che per la verità c'era già anche nel giornale radio e che potrebbe fare arrabbiare qualcuno, perché tra le proposte di Tremonti c'è anche quella di accorpare le festività alle domeniche, quindi escluse le festività religiose. Quindi salterebbero il 25 aprile, la festa del 1 maggio, quella del 2 giugno. Tremonti direbbe no, non saltano, verranno festeggiate la domenica successiva, però quel giorno, se non è domenica, non verrebbero festeggiate con una, diciamo, pausa da lavoro, insomma si va a lavorare normalmente. Questa è una delle proposte in campo per recuperare un po' di PIL, un po' di produttività. Fabrizia da Pisa, buonasera. Buonasera. Prego. Volevo fare un commento sullo spot che ha mandato in onda il governo circa i parassiti che non pagano le tasse. Approvo ovviamente l'intento. E la fotografia e l'immagine che hanno mandato in onda, che secondo me è sbagliata, in quanto dà la percezione che si ha è che sia un povero disgraziato, magari sembrano quei parassiti che so, prendono una pensione non giusta, non... Mentre a me avrebbe fatto piacere vedere qualche immagine di professionista, che sono quelli che sono effettivamente i grandi evasori. Cioè lei dice uno in giacca e cravatta? Esatto, in giacca e cravatta, in camice. Sì. E sappiamo tutti quanto... Il fatto è che in effetti questo non... A me, noi non ci avevo pensato vedendo l'immagine che è stata scelta, un'immagine volutamente... Io ho definito la faccia di una persona poco rassicurante, proprio per, esatto, associare, sì, immediatamente l'idea dell'evasore con qualcuno che, insomma, si usa la parola parassita, quindi con qualcosa di molto negativo. Però lei dice, alla fine, evasori sono anche persone... Magari anche più immagini, ecco. Magari non per classificare se tutti i professionisti sono ladri o evasori o tutti i medici. Cioè, per ogni categoria professionale, perché se mettiamo il camice e poi si incavolano i medici, se mettiamo l'idraulico si incavolano gli idraulici e via discorrendo. Però comunque, una giacca e cravatta ci sarebbe stata ci bene, poteva stare. Grazie Fabrizia, grazie. Buonasera. Michele dalla provincia di Modena, prego. Sì, buonasera. Buonasera. Sì. Innanzitutto un velocissimo complimenti per la vostra signora e vi ringrazio anche perché mi tenete compagnia ora che mi trovo qui a scrivere la tesi per l'università in un posto in cui non ho neanche la televisione. Quindi... Non si distraga troppo perché sennò questa tesi va per le lunghe. Sì. Sì, infatti i tempi stringono. Infatti, niente, per il resto, sì, solo velocemente volevo manifestare solo i miei dubbi circa le voci più o meno attuali adesso che si stanno diffondendo in questi giorni circa la possibilità di modificare, io penso, lo statuto dei lavori per ottenere maggiori facilitazioni per i licenziamenti dei lavoratori dipendenti, perché secondo me, lo dico poi da profano, assolutamente non intenditore di tematiche economiche del lavoro, però secondo me in un periodo come è il giorno d'oggi, in cui il contratto di lavoro a tempo determinato è ormai caduto in disuso, ormai sono solo le vecchie generazioni che ancora vantano questo contratto, secondo me si andrebbe ad aumentare semplicemente la disoccupazione, soprattutto giovanile, quindi a mortificare ulteriormente un mercato qual è quello degli under 30, degli under 35, già di per sé assolutamente precario, e di conseguenza si andrebbero a ridurre i consumi perché meno occupati corrispondono a meno occupati corrispondono meno consumi, e si andrebbe poi anche probabilmente a impedire il raggiungimento della pensione ad alcuni over 50 che probabilmente verrebbero licenziati all'ultimo momento senza maturare gli ultimi anni di contribuzione e successivamente farebbero molta fatica a trovare il lavoro. Quindi secondo me, sempre da profano, sarebbe meglio forse probabilmente andare, al contrario di quanto affermava poco fa l'onorevole Stracquadagno, andare forse a tassare maggiormente le rendite finanziarie o le stock option, ecco, tiro fuori le stock option come faceva Bertinotti tanti anni fa, perché secondo me bisognerebbe invece che continuare con lo slogan nessuno qui ha abbassato le tasse, invece andrebbe meglio andare a prendere i soldi dalle tasche italiane, in particolar modo da quelli che hanno le spalle un po' più larghe, diciamo, anziché andare sempre sulla sanità. Grazie Michele, le facciamo sentire Tremonti su questa ipotesi di favorire i licenziamenti. Sentiamo così dalle sue parole e ci facciamo un'idea. E poi formule, devo dire, piuttosto, come dire, critiche, e cioè dire licenziamento o dismissione del personale compensato con meccanismi di assicurazione e di migliore o più felice collocamento sul mercato del lavoro. Comunque appaiono anche le parole diritto di licenziare. È chiaro però che siamo ancora in una fase dove tutto è possibile, perché quello di Tremonti oggi è stato un lungo elenco soprattutto di ipotesi, ipotesi che quindi per ora restano tali. E infatti io ho detto che se c'è una contraddizione, perché se da un lato nei commenti che sono stati fatti al discorso di Tremonti c'è una contraddizione, se si dice che il discorso è stato fumoso, poi però si dice già questo non si può fare, questo non si può fare, no alla patrimoniale, no all'intervento sulle pensioni, no a quello sul lavoro, evidentemente però qualcosa ha detto Tremonti, perché sennò tutti questi no non si spiegherebbero. Dobbiamo fare una pausa? No, andiamo dritti con gli ascoltatori. Carlo da Milano, buonasera. Carlo non ci sente. Allora salutiamo Paolo Ferrero, segretario di Rifondazione Comunista. Buonasera, il nostro prossimo ospite. Buonasera, salve agli ascoltatori e alle ascoltatrici. Che ci ha appena raggiunto. Allora io la prima domanda gliela butto così. È contento per il fatto che adesso viene ritirata fuori, ripresa una misura che lei quando era governo Prodi e comunque come segretario di Rifondazione ha portato avanti spesso, quella della patrimoniale per esempio o delle tasse sulle rendite finanziarie, che è tornata d'attualità? Ma si tratta di vedere come viene fatta, perché in questi casi si può far bene o si può far male, e soprattutto devo dire che il contesto in cui torna fuori invece è un contesto di una stangata pazzesca sul mondo del lavoro, per cui rischia anche questa parola patrimoniale di evocare magari una misura positiva ma dentro un florilegio di misure negative, quindi bisognerà vedere il pacchetto tutto intero. Per adesso cosa si vede non è buono. In che senso cosa si vede non è buono? Ma le cose di cui parla Tremonti sono privatizzazioni, licenziamenti e mettere in costituzione il divieto di deficit di bilancio. Cioè una è misura... sbagliato questo secondo lei? Mi sembra una cosa sulla quale molti invece concordano, anche se qualcuno parla di specchietti per le allodole, è proprio contrario. Diciamo che l'unico periodo in cui il mondo in quanto tale è andato abbastanza bene, cioè tra il 45 e il 75, qui c'è stato sviluppo economico, sviluppo civile, la gente è passata dal non avere il bagno in casa all'avercelo, andare a scuola, a fare le medie, cioè diciamo la fase del mondo migliore che si sia conosciuta. Insomma, il boom economico, sì. Il boom economico è stato fatto grazie al fatto che lo Stato spendeva anche in deficit, che è la base centrale di una teoria economica che è quella keynesiana e che stiamo verificando come sia drammaticamente vera, e cioè che il capitalismo privato, che i privati non sono in grado di mettere al lavoro tutte le forze che ci sono nella società, perché questo sia possibile è necessario un intervento dello Stato. In questi anni in cui hanno demolito l'intervento pubblico ci abbiamo una disoccupazione devastante. Io penso che non si esce dalla crisi se non c'è anche una capacità di spesa in deficit là dove serve. Però Ferrero, stiamo anche sperimentando che continuare a spendere in deficit come ha fatto l'Italia, che ha accumulato, non so se più se il terzo debito al mondo, non è che ci porti, come dire, su una strada molto sicura, perché, o no? No, però guardi che il deficit è gonfiato per le spese sugli interessi. Però allora quelli si devono pagare, perché una volta che abbiamo il debito bisogna finanziarcelo. Non è così naturale, diciamo, la questione, perché ad esempio il fatto che a livello europeo si sia deciso di avere dei tassi di interesse dell'1,5% e che mentre negli Stati Uniti e in Giappone sono allo 0,10, 0,25, addirittura zero, e che la banca centrale, unica nel mondo, la banca centrale europea, invece che comprare direttamente i titoli di Stato, al massimo li compri sul mercato secondario, lasciando alla speculazione di fare il prezzo, e questa è una porcheria che viene fatta per scelte politiche e che fa sì che la spesa per interessi sul debito cresca a dei livelli che non sono necessari. Basterete... Una posizione che però l'avvicina stranamente a Bossi, che alterna posizioni più o meno euroscettiche, però insomma... No, Bossi non è vero, Bossi è un servo della Germania. Sardegna in senso tecnico, perché l'unica logica della manovra di Tremonti non è il benessere degli italiani, che verrà pesantemente messo in discussione. L'unica logica è tagliare il costo del lavoro in Italia, in modo che la Germania continui a servirsi dell'industria italiana per produrre semilavorati e li abbia a basso costo. Questa è l'unica logica. Bossi, da questo punto di vista, ma scusi, ma cosa c'è, non è per nulla euroscettico, ha votato a favore della Costituzione europea ed è totalmente subalterno agli interessi della Germania, che sta facendo il bello e il cattivo tempo. Ma quale sarebbe il tornaconto di Bossi nel cerco di seguirla in questa cosa di favorire la Germania? Beh, evidentemente c'è un pezzo di apparato produttivo a cui lui fa riferimento, di imprenditori, che l'unica cosa che gli interessa è mantenere il rapporto con la Germania, certo non diciamo garantire una serie di diritti ai lavoratori. Infatti Bossi sta dicendo che va bene cosa fa la BCE, Bossi ha votato a favore della Costituzione europea, che prevede esattamente che la Banca Centrale non intervenga per frenare la speculazione, cioè Bossi le ha votate tutte da questo punto di vista. In questo senso l'asse Bossi-Tremonti mi sembra un asse in cui un pezzo del paese, alcuni ceti imprenditoriali e quant'altro, fanno affari con la Germania su queste manovre e larga parte del paese invece vede peggiorare le sue condizioni. Questa è la cosa che stanno facendo. Senta Ferrero, ma se si delineasse un accordo complessivo per superare questa crisi, che comprendesse un intervento per esempio di una patrimoniale o di una tassa sulle rendite finanziarie e dall'altra però anche un intervento sulle pensioni, secondo lei sarebbe auspicabile? No, perché ci sarebbe una cosa buona e chissà quante cattive che peggiorerebbero la condizione. E il punto della manovra va visto da un punto di vista che è la giustizia sociale, cioè alla fine della fiera chi ci paga e chi guadagna, o chi paga di più o chi guadagna di più. Questo è il primo punto, quindi va fatto un bilancio complessivo. Secondo elemento per giudicare la manovra è: la manovra è recessiva o favorisce lo sviluppo? Tutte le cose proposte fino ad oggi che si sono sentite sono recessive, perché sarebbe ridurre la massa salariale, mandare la gente in pensione tardi, cioè impedire ai giovani di entrare a lavorare, e cose di questo tipo. Cioè sono tutte cose che vanno nella stessa direzione delle manovre che da un anno a questa parte sta facendo la Grecia. La Grecia, dopo un anno di stangate pazzesche, è semplicemente messa molto peggio di prima, perché il prodotto interno lordo è sceso, evidentemente quindi il rapporto deficit-PIL è peggiorato, e così ci troviamo la Grecia che ha gambe all'aria. La politica che stanno proponendo anche all'Italia è di fare esattamente quello che si è fatto sulla Grecia. A me sembra una follia. Ma allora da dove si dovrebbero recuperare tutti questi miliardi di euro? E sono parecchi, per anticipare il pareggio di bilancio, che però questo mi sembra un punto indiscutibile, Paolo Ferrero. No, io non credo che il pareggio di bilancio sia un punto indiscutibile. Ho capito, ripeto, però su questo, cioè io le chiedo un parere su come arrivarci, perché se torniamo indietro su quello, però siccome invece no, mi pare che indietro, sia assodato. No, beh certo, questa è la sua opinione, però mi pare che l'abbia già detto, sì. Io le chiedo invece, allora, se lei fosse in qualche modo nell'arco parlamentare in questo momento, quale sarebbe la sua ricetta? Ma la mia ricetta sarebbe questa. Il primo, di fare una tassa patrimoniale sui patrimoni al di sopra del milione di euro, tassare le rendite finanziarie sempre per grandi taglie, cioè di far pagare ai ricchi una quota. Però si parla di cifre, la tassa sulle rendite finanziarie, diciamo, 1-2 miliardi. No, sono 20 miliardi, a seconda di come si fa. Se uno fa una cosa che Berlusconi, diciamo così, non sborsa niente, è probabile che sia 1-2 miliardi. Se uno fa una seria tassa patrimoniale, ripeto, per i patrimoni sopra il milione di euro, si tirano a casa almeno 20 miliardi di euro. Cioè con una patrimoniale sopra il miliardo di il milione, scusa, di euro. Chi possiede meno di un milione non paga niente. Chi possiede più di un milione inizia a pagare per la quota sopra il milione. E si può fare una tassa progressiva che parta dall'1% e va dal 2, il 3% per i grandi. E questo potrebbe portare 20 miliardi. 20 miliardi. Poi c'è sempre ovviamente lotta all'evasione e all'elusione, e questo è un pezzetto. secondo criterio, secondo cosa da fare, dimezzamento delle spese militari. Noi stiamo bombardando la Libia e continuando a stare in guerra in Afghanistan e abbiamo delle spese militari del tutto al di fuori del resto. Basterebbe chiudere queste due missioni e ridurre le spese militari. Terzo, dimezzamento dei cosiddetti costi della politica. Va benissimo dimezzare i parlamentari, gli stipendi e gli enti inutili che ci sono. Quarto, basta con le grandi opere inutili o dannose, ponte sullo stretto, TAV in Val di Susa, cose di questo tipo. Faccio notare che la TAV in Val di Susa si dice che ce la paga l'Europa, falso, sono 15 miliardi di spesa a carico dello Stato italiano per fare una linea ferroviaria in un posto dove ce n'è già un'altra. Ma scusi Ferrero, però qua si contraddice, almeno secondo me. Lei prima ha detto che lo Stato dovrebbe spendere per portare avanti. Però le grandi opere inutili, sì. E invece dico sì ad un piano per la riconversione ambientale sul piano energetico che sintetizzerei così: pannelli solari su ogni tetto di ogni edificio pubblico, che potrebbe dar luogo ad una filiera in Italia di costruzione di pannelli solari, di gente che li deve piazzare, tutto il resto, e che sarebbe una cosa utile. Ultimo punto, il fatto che le aziende che delocalizzano all'estero dovrebbero restituire i soldi che hanno preso come finanziamenti pubblici dallo Stato. Anche questa è una misura, diciamo così, normale in un paese civile, che in Italia avrebbe una qualche forza, visto che qui abbiamo Marchionne che ha preso miliardi dallo Stato in tutti gli anni e poi adesso ricatta i lavoratori in quel modo. Quindi queste sono ad esempio cinque misure che si potrebbero fare e che darebbero qualche decina di miliardo, che non è, diciamo così, poca cosa rispetto alla situazione in cui ci siamo, senza fare misure recessive e invece usando eventualmente questo come leva per una redistribuzione dall'alto in basso, che è il punto fondamentale che abbiamo. Senta, come giudica l'atteggiamento di Bersani in questa, nella gestione di questa crisi, per quanto gli concerne, insomma, il leader dell'opposizione, del PD? Diciamo che lo trovo altalenante, quindi poco efficace, perché da un lato si tende a dire la colpa di tutto è di Berlusconi, quando è evidente che Berlusconi ha le sue parti di colpa, ma una parte della responsabilità di questa crisi sta indubbiamente in capo alle politiche europee, che non sono solo di Berlusconi, e quindi bisognerebbe dare un giudizio. Citavo prima la questione della Banca Centrale, perché è evidente che il fatto che l'Europa sia l'unico continente nel mondo sottoposto a speculazioni finanziarie è dato dalla politica della Banca Centrale Europea, non da altre cose. Il Giappone ha un debito pubblico del 220% rispetto al prodotto interno lordo. Non c'è nessuna speculazione sul Giappone perché normalmente, come accadeva anche in Italia prima, diciamo, dell'euro, la banca centrale si compra i titoli di Stato del Giappone e va avanti tranquillo senza nessun problema. Ferrero, quindi, in 20 secondi le volevo chiedere un'altra cosa, mi scusi perché poi abbiamo la chiusura. Lei conferma, a proposito delle rivolte di Londra, ha parlato di che cosa ha parlato? Che non sono delinquenti, non sono criminali. Ho detto che quella è una rivolta, è un fenomeno sociale di strati giovanili emarginati. Dire che quello è un atto di criminalità, secondo me, vuol dire precludersi la possibilità di capire quello che sta succedendo, anche capire che forse bisognerebbe non fare delle leggi che impediscono a quei giovani di andare all'università, come ha fatto Cameron l'anno scorso. Grazie Paolo Ferrero, segretario di Rifondazione Comunista. 19:59, una pausa e poi tra pochissimo 824 0024. Rientriamo alle 20 in punto con i titoli del TG1. Napolitano anticipa e rientra al Quirinale ed incontra Berlusconi e Tremonti per le misure anticrisi. In serata al Colle anche Bersani e Casini. Crisi, Tremonti alle Camere, pareggio di bilancio e tasse sulle rendite, opposizione all'attacco, Bossi, discorso fumoso, il PDL, l'ora del dialogo. Volano le borse europee, Milano è stata la migliore, guadagna il 4% e si riduce ancora lo spread sui BTP. Sembra placata la rivolta in Gran Bretagna. Il Premier Cameron per la linea dura, se serve dice esercito nelle strade. Collisione in mare al largo di Napoli, in corso le ricerche dei due marittimi, padre e figlio, potrebbero essere intrappolati nel relitto affondato. Vasco Rossi continua in rete il suo dialogo con i fans. Ho vissuto, scrive, un momento di profonda malinconia per la morte di due amici che non definirei nemmeno depressione, anche per rispetto verso chi davvero soffre di questa malattia. Benissimo, riprendiamo con i vostri interventi, cari ascoltatori, all'800 24 0024. Qualcuno chiede di leggere i messaggi al 349-2386666, però non c'è niente di, secondo me, di leggibile per ora. Giuseppe da Brescia, buonasera. Buonasera, mi sente? Sì, benissimo, forte e chiaro, ecco. Prego. Allora, stavo dicendo, per me il discorso è questo. Una coperta evidentemente stretta, no? Ci sono vari modi di vedere la cosa, viene tirata da una parte e viene tirata dall'altra. E vorrei fare un po' un passo indietro e vedere la questione in questi termini. Quando c'è un'azienda, facciamo un esempio di un'azienda, quando non c'è un fatturato è chiaro che i problemi nascono e mi sembra il problema è la mancanza di crescita. In questo do ragione anche a quello che è stato detto, bisogna far crescere il paese. Straquadagno ha detto però, questo, sì. Ecco, anche il problema della mancanza parte, sì. Di crescita, no? Facciamo ancora un passo indietro un attimo. Cioè praticamente gli Stati Uniti d'America, c'è l'Europa, c'è la Russia, sostanzialmente c'è la Cina. Da quando è entrata la Cina nel WTO, io sono stato favorevolissimo che entrasse, però è entrato senza una moneta libera, ha creato un disastro economico che è datato, che parte dalla sua entrata ed arriva adesso. Faccio un esempio banale. Una camicia in Italia costa, si vende alla Cina 15 euro, se arriva da un produttore italiano, un artigianato, costa 50 euro. Se la moneta cinese fosse libera, sicuramente varrebbe il doppio di quello che vale, come è richiesto dal WTO quando uno entra nel WTO. L'unico a essere stata esente è la Cina, e arrivo subito alla conclusione. Cioè, se fosse doppio, la camicia costerebbe 30 euro e l'artigianato italiano, l'industria italiana, riuscirebbe comunque, chi produce in Italia, ad avere un altro mercato. Secondo me, in conclusione, dovrebbe essere l'Europa a dire, a affiancare gli Stati Uniti e a dire alla Cina, va bene, guardate signori miei, la vostra moneta non può essere continuamente una moneta falsa, dovete metterla sul mercato. Questo è il punto, perché senza questa situazione tutto il resto è una coperta che viene continuamente tirata da una parte o dall'altra. Io non capisco, sì, una cosa, come mai gli economisti non sottolineano questa cosa, perché c'è questo fondo, cioè non c'è più il mercato. L'altro, sì, no, ma vede, grazie tra l'altro. Beh, se ne è parlato, credo che questa cosa sia frutto, oggetto di una trattativa tra l'America, per esempio, e la Cina. Lei parlava dell'Europa, ma anche l'America ha lo stesso problema, e ogni cosa però si ottiene tramite trattative, il discorso del riequilibrio delle monete. Non vado oltre perché non è materia di mia pertinenza. Abbiamo i titoli della 7. Il discorso di Tremonti con le misure anticrisi divide il governo, la tensione alla maggioranza a questo punto è altissima, con Bossi che definisce l'intervento del ministro dell'economia troppo fumoso, mentre quattro fedelissimi di Berlusconi vanno all'attacco e dicono che il nostro voto non è affatto scontato. E la politica stavolta si dice pronta a accantonare le logiche di bandiera di fronte all'interesse nazionale, ma il problema è la chiarezza sulle misure da adottare. Fini dice sono allibito, Bersani invoca che al governo non tremino i polsi, Di Pietro dice questo è un governo commissariato. Nel pomeriggio cambio di scenario politico con il presidente Napolitano che, rientrato anticipatamente dalle vacanze, compie quasi un giro completo di consultazioni, vede Berlusconi, Tremonti e Letta, ma anche Bersani e Casini e il presidente del Senato Schifani. Per domani anche fissato l'incontro con il presidente della Camera Fini. Lo sfondo di questa manovra rimane quello che molti giudicano il provvedimento innominabile ma forse più efficace, la patrimoniale. Secondo alcuni una misura di sinistra, ma per molti economisti è uno strumento di redistribuzione del reddito in tempo di crisi. Ha un difetto, fa perdere le elezioni. E mentre la politica litiga su come fronteggiare la crisi, i mercati regalano una giornata di tregua. Le borse tornano a respirare, Piazza Affari addirittura chiude con un vistoso più 4,1%, il miglior risultato in Europa. passa da Napoli a Roma, una parte non certo secondaria dell'inchiesta sulla cosiddetta P4. La Cassazione ha accolto i ricorsi e ha ritenuto i PM napoletani incompetenti a indagare sulla presunta fuga di notizie del generale Adinolfi, quella che avrebbe consentito a Luigi Bisignani di conoscere in anticipo le mosse dei magistrati. Anche in Gran Bretagna la politica al lavoro in pieno agosto per le violenze che hanno seminato paura a Londra e nelle altre grandi città inglesi. Il premier Cameron insiste nella linea dura e chiede di vietare maschere e cappucci per i ragazzi e bloccare i social network. E allora riprendiamo con i vostri interventi, cari ascoltatori. Abbiamo Roberto che ci chiama da Torino. Buonasera, benvenuto. Pronto, buonasera. Prego. Io volevo intervenire su quella frase del segretario della CGIL Camusso in merito alla proposta di rendere più agevole, adesso naturalmente queste sono cose riportate dai giornali, bisogna poi vedere il contesto, la frase completa, ma comunque di rendere più agevole il licenziamento. E la Camusso dice che una misura come questa sarebbe a tutto svantaggio dei giovani. Ecco, intanto vorrei capire che argomentasse questa cosa, perché a me non sembra, se la misura significa che il mercato del lavoro italiano così ingessato favorisce, come anche gli altri mercati, sia gli ingressi che le uscite, quindi le uscite aumentano, si rende più facile l'uscita al mercato del lavoro, ma nello stesso tempo diventa più agevole anche l'ingresso, e questo sarebbe un meccanismo che secondo me non andrebbe a svantaggio dei giovani, perché per esempio nel pubblico impiego, dove magari c'è della gente che bassa produttività, insomma per vari motivi non avrebbe titolo a rimanere, così a ricoprire quel posto, potrebbe liberarlo a favore di un giovane che vuole volenteroso, questo. Sì, però se dobbiamo, per creare posti ai giovani, far perdere lavoro ai cinquantenni, devo dire che personalmente non mi è chiarissimo in che modo, ma lo dico proprio sinceramente, in che modo in questa fase, diciamo, spingere sulla libertà del licenziamento possa servire a risolvere i problemi che abbiamo in questo momento e a far ripartire al limite l'economia. Devo dire che non lo capisco, però probabilmente è un mio limite. Grazie. Cosa abbiamo? Abbiamo ancora gli ascoltatori, la prossima pausa è tra un po', quindi siamo liberi. Stefano da Perugia, buonasera. Buonasera. Prego. Senti, io appartengo a quella categoria di adolescenti che condivise tanti anni fa il sogno di un'Europa che era di Altiero Spinelli. E purtroppo poi questa Europa, crescendo, non è nemmeno diventata lontanamente l'Europa che sognavamo. Stamattina sentivo, oggi pomeriggio ero in macchina e sentivo i commenti che faceva Bersani su quel programma che lei anticipa con la Zanzara, dove appunto condannava, accettava un discorso di regole, ma non accettava, adesso non ho capito se era la BCE o l'Europa che ci dettasse anche i rimedi. Però ecco, vorrei dire che l'onorevole Bersani ha la memoria corta, perché questa Europa che viviamo oggi, sia per quanto riguarda la parità monetaria e tutto quanto, credo che a quei tempi ci fosse un certo professor Prodi e un onorevole Ciampi, e a quei tempi anche lì la Germania ha fatto il buono e il cattivo tempo, quindi diciamo scopre l'acqua calda, però dovrebbe fare un po' anche un esame di coscienza, che se oggi ci troviamo in questa situazione è proprio grazie a questi due pilastri del centro-sinistra. Era solamente una considerazione. Sì, grazie. Risentiamo un Di Pietro che chiede chiarezza sul ruolo dell'Europa e sulla famosa lettera della BCE. Vogliamo sentire la lettera, vogliamo chiarezza su questo, dice oggi dopo l'audizione di Tremonti. Oggi ci ha detto una sola cosa di nuovo, che è stato commissariato dalla BCE. Allora la prima cosa che noi le chiediamo è questo: tiri fuori questo documento di commissariamento, non ci venga a dire che è un documento confidenziale, lei non c'è mica andato a letto con la BCE che c'ha la confidenza, cosa avete fatto stanotte? La BCE le ha mandato un documento e non le ha mandato a lei in quanto ministro o amico, gliel'ha mandato a lei in quanto esponente del governo, e lei come esponente del governo al Parlamento deve dirci e darci il documento della BCE, perché vogliamo sapere fino a che punto l'Italia è un paese ancora sovrano e da che punto questo paese è stato definitivamente commissariato. E va bene così, una delle voci di oggi era Di Pietro, adesso riprendiamo, abbiamo chi abbiamo? Orazio da Messina, buonasera. Buonasera, senta, io volevo dire, sì. Lo dico con sorpresa prima per me, che praticamente io sono distantissimo da Ferrero, io sto all'estrema destra radicale, non ho rappresentanti in Parlamento proprio per questo, e Ferrero è il segretario di Rifondazione Comunista. Ebbene, condivido sia l'analisi che lui ha fatto sulla situazione politica ed economica italiana e europea, sia le soluzioni che ha proposto, una per una, perché credo che siano le più intelligenti e soprattutto le più eque. In una società in cui l'evasione fiscale sfiora i 200 miliardi l'anno, si sa bene come recuperare questi soldi, ma non si vuole fare, perché sia il centrodestra che il centrosinistra hanno i loro elettorati da proteggere, e si fa pagare tutto, come al solito, al povero fesso di dipendente, di lavoratore dipendente o di pensionato, magari con l'assenso dei sindacati, come è stato fatto già con il blocco degli stipendi per gli statali per 4 anni. Io sono fuori questione, guardi, non difendo nessun orticello, sono in pensione da 2 anni e mezzo e dopo 47 anni di contributi, e quindi quello che dico è perché è quello che sento. Grazie Orazio, capita a chi ha spesso delle posizioni magari non allineate di ottenere un inaspettato consenso magari anche da chi parte da posizioni molto diverse, come era nel suo caso. Andrea da Asti, buonasera. Sì, buonasera a voi. Ho sentito l'apertura di tutti i telegiornali in diretta e poi l'ho riascoltata con voi alla radio. A me sembra che Mentana abbia fotografato la situazione italiana in maniera abbastanza chiara. Penso che dal 92 ad oggi sia uno dei momenti più cruciali nella storia dell'economia, della politica, della società italiana. Eppure se uno va a prendere l'estratto ANSA di ciò che Tremonti e il governo, Tremonti come esponente del governo, hanno previsto per rattoppare questa crisi, si leggono le solite cose: lotta all'evasione, chiusura dei rubinetti ai vari ministeri, spese della politica, cioè io non vedo una voglia trasversale di modificare strutturalmente un paese come l'Italia, che probabilmente ha vissuto al di sopra delle sue possibilità, ma non lo scopriamo certo oggi, semplicemente ci si era bendati quando questo accadeva. Io non riesco a capire come si possa pensare di riempire una fossa con un cucchiaino, quando poi si continua a scavare nella stessa fossa con una pala, anche se uso 2 pale oggi, ma la pala continua ad operare sulla fossa, prima o poi ritornerà a quel buco. Si tratta di avere un'idea trasversale di come uscire da questa crisi. La patrimoniale farà perdere le elezioni? Non lo so, io so solo che Churchill, dopo aver tirato fuori l'Inghilterra dalla seconda guerra mondiale, le ha perse le elezioni, quindi non è detto che operare nel migliore dei modi ti porti a vincere le elezioni, però se a 60 anni stiamo ancora parlando di Churchill, forse qualcosa di buono l'ha fatto. Per fortuna non abbiamo le bombe a Milano o a Roma, ma abbiamo una situazione economica terrificante, 3 filtri prima di arrivare al cittadino, comune, provincia, regione, gli unici in Europa ad avere 3 filtri così. C'è chi ha gli arrondissement, chi ha solo le macrostrutture, adesso vogliamo aggiungere anche le comunità metropolitane. Mi tocca dar ragione a Casini, che ha detto una cosa giustissima: abbiamo paura di perdere voti, mettiamoci a un tavolo e approviamo tutti gli stessi provvedimenti. Io di filo elettorato sono di destra e sono uno di non fesso, stando a quello che diceva l'ascoltatore di prima, ho 30 anni, lavoro in proprio da quando ne aveva 24 e assicuro l'ascoltatore di prima, le pago anch'io le tasse, non ne vado niente e quant'altro. Sono strutturali i problemi dell'Italia, se non c'è il coraggio di cambiarli potremmo mettere a posto qualcosa adesso, come è stato fatto con Dini a suo tempo, che aveva preso l'una tantum, o con Prodi per entrare in Europa, ma non cambierà niente, torneremo di nuovo a questo punto. E per chiudere, come si fa a non distinguere l'andamento economico italiano dall'andamento delle borse? Adesso oggi Piazza Affari ha recuperato oltre il 4%, allora andiamo bene, non è così grave. Io non riesco a capire come non ci possa essere la voglia da parte dei nostri politici di elevarsi a un gradino più alto di sopra i propri interessi, a meno che non si voglia chiudere tutto in una parola: paura. Queste sono persone in età avanzata che hanno paura di ritrovarsi ad affrontare situazioni nuove, per cui preferiscono la stagnazione è un rimedio come un cerotto, senza rendersi conto che stiamo trattando una gamba rotta, che il malato è terminale. Grazie, è indubbio che manca nella politica italiana, ma scopriamo l'acqua calda, una visione da parte o del centrodestra o del centrosinistra. Il centrodestra ce l'aveva, ma adesso la sta sicuramente perdendo, in difficoltà per via della crisi. Sicuramente manca una visione del futuro. Come dire, qualche tempo fa c'era un editoriale in prima pagina sul Corriere della Sera, non mi ricordo chi, citava addirittura Mao Zedong, che era un uomo di grandi visioni, insomma un'idea di come arrivare a uscire dalla crisi, però non soltanto con misure tampone e tamponcini, ma anche con una spinta. Ma insomma, ripeto, questa sicuramente è un po' scoprire l'acqua calda, cosa che invece per esempio in America è diverso, perché i discorsi che ha fatto il presidente Barack Obama sono di tutt'altra spinta, sia quando ha ventilato la crisi del possibile default americano, ha parlato chiaramente di Armageddon, di un momento difficile, sia quando poi fa i suoi discorsi visionari, che però credo che servano anche a tenere, dico una cosa banale, però credo che sia così, il paese unito e avere una spinta per mettere insieme una via d'uscita da questa crisi. 20:17, traffico e poi l'ultimo spicchio di trasmissione all'800 24 0024. Dichiarazione di Bossi, vediamo che cosa dice Umberto Bossi. Si terrà domani il Consiglio dei Ministri, gli chiedono, vado a vedere oggi, non era chiaro ancora niente, adesso facciamo il punto da Berlusconi. Così Bossi, lasciando Montecitorio mentre si dirigeva a Palazzo Grazioli, sede del governo di Berlusconi. Carlo da Milano, buonasera, prego. Sì, buonasera. Eccoci qua. Buonasera, eccoci qua. Buonasera a lei e a tutti gli italiani in ascolto. Volevo fare il mio piccolo intervento per dare un suggerimento. Abbiamo ascoltato diversi politici di centro, di destra, di sinistra prima, e tutti danno delle soluzioni ai problemi dell'economia. Sentendo queste persone dovremmo veramente aver risolto già tutti i nostri problemi. L'Italia dovrebbe essere una nazione fiorente, ma invece continua sempre a calare, andare sempre più in basso. Allora il suggerimento mio quale potrebbe essere? Mi sente? Sì, sì, la sentono anche gli ascoltatori. No, benissimo. Allora quale potrebbe essere il suggerimento mio? Prima i politici di qualsiasi estrazione, di centro, destra o sinistra, dovrebbero smettere di rubare. Secondo suggerimento è questo: abbiamo gli ultimi due nomi all'ordine della cronaca, Papa e Milanese, ma quale italiano che adesso è in ascolto ha dato il voto a Papa o a Milanese? Chi è che l'ha votato? Sono politici che sono stati votati dai segretari di partito. Beh, questo sì, è chiaro, col sistema elettorale attuale è così. Non rispondo ai segretari di partito. Sì. Noi abbiamo 7 persone che comandano in Italia, che sono i segretari di partito, fanno il bello e il cattivo tempo, la palla se la smeno da una parte all'altra, sì, e non riusciamo a venirne fuori. Allora, tutte le soluzioni che propongono sono fallimentari, perché pensano sempre ed esclusivamente ai propri fattacci. Quindi allora, lei almeno una riforma del sistema elettorale la vorrebbe, ma per, noi dovremmo per tornare, sì, far tornare la politica in mano ai cittadini, in mano al popolo. Appunto, ma quindi con un sistema di voto diverso o come, ma se certo, no, mi scusi. Certo, certo, perché sì, non va bene il sistema di voto elettorale, ma andava bene nemmeno quello precedente, il Mattarellum, che comunque c'erano. No, ma io mi riferivo alle preferenze, perché per scegliere chi si vota ci vogliono le preferenze, non c'è niente da fare, altrimenti si votano in ordine le persone nominate, come dice lei, dai segretari di partito. È stato così l'ultima volta, è inevitabile anche la penultima col sistema elettorale attuale. E poi i casi Papa e Milanese, certo, io ho detto anche ieri sera, dove ci sono delle inchieste bisogna sicuramente aspettare che ci sia una parola definitiva, però il quadro che ne esce non è sicuramente edificante, non aiuta quello che si legge nelle intercettazioni sui giornali, è un quadro comunque di poco elevata, insomma, quantomeno a voler essere generosi. Grazie Carlo. Alberto da Milano, buonasera. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Prego. Io volevo parlarle del discorso delle privatizzazioni, cioè di mettere all'asta i beni pubblici. Un argomento non molto caldo, visto che proprio oggi è uscito il discorso del licenziamento. Però, visto che questo governo ci ha abituato che molto spesso le spara grosse, poi vede le reazioni e poi aggiusta il tiro. Speriamo bene. Comunque, il discorso delle privatizzazioni è un discorso che io non riesco veramente a capire, perché come posso uno Stato dare la possibilità a dei privati di ricavare profitto da beni nostri? Sono beni che noi abbiamo già pagato. Prendiamo l'esempio delle concessioni delle autostrade che sono state date all'industriale del Maglioncino Colorato. Lo stato delle autostrade sappiamo com'è, il biglietto è aumentato e quindi non capisco dove sia il vantaggio per noi. Ma non possiamo fare troppo gli schizzinosi, nel senso che anche le privatizzazioni, anche la cessione di qualche asset, non lo so di che tipo, non può non rientrare in questo momento. Bisogna sempre ricordarsi che partiamo da una situazione con un debito pubblico talmente grande che tutti gli interventi saranno sicuramente utili e necessari. Dopodiché poi ogni cosa ha delle controindicazioni, però ripeto, non si può escludere nulla. Lei ha dei pregiudizi negativi sulle privatizzazioni, va bene, i sindacati li hanno sulle pensioni, sull'intervento sulle pensioni. Lupi non vuole la patrimoniale, che facciamo? Ascoltatore, lì Alberto? Sono sempre in linea. Cosa facciamo? Di cose ce ne sono tante, perché comunque se noi siamo in queste condizioni, visto che noi, ricordiamoci, noi abbiamo gli stipendi più bassi d'Europa e abbiamo la tassazione più alta d'Europa. Quindi evidentemente, pur con un introito dovuto alla tassazione più alta d'Europa, siamo in stato di crisi, evidentemente i problemi sono altri e lo sappiamo quali sono. Grazie. La corruzione, sì. Non solo. Però andare a dare dei pezzi di Stato che noi abbiamo pagato, perché l'autostrada l'abbiamo pagata noi, facendoci pagare 2 lire, come ad esempio è successo per le questioni delle frequenze nazionali, perché il nostro Premier, quello che ci chiede sacrifici, per le frequenze, lei lo sa quanto paga sul fatturato. Non saranno il massimo le privatizzazioni, però ripeto. L'1%. E questo è un regalo dato da un certo Massimo D'Alema. Giusto per chiarire, quando la gente dice destra e sinistra, così magari si capisce bene la differenza che purtroppo abbiamo su questi due schieramenti. Grazie. A lei, arrivederci. Che dire, insomma, sulle privatizzazioni, ripeto, sono fare mille distinzioni, però non credo che, per esempio, oggi Libero punta tutto su questo. Ecco dove sono i soldi, consigli antistangata. C'è un patrimonio dello Stato che secondo Libero vale fino a, ora non ricordo più, 300 miliardi addirittura, e quindi si potrebbe prendere tutto di lì. Ora non dico tutto, però insomma qualcosa forse sì, perché ripeto, la sensazione che ricavo dall'incontro di oggi è questo, che se tutti pongono dei veti su tutte le misure, allora Tremonti farebbe bene a tornarsene a casa. Ludovico da Roma, buonasera. Sì, buonasera. Prego. La situazione è ovviamente estremamente complessa e mi rendo conto che tra l'altro mi sembra ci siano idee a livello governativo estremamente confuse. Io sono un economista ed ho alcune imprese in Alta Italia, ma credo che quello che non riesco a capire è il fatto che il problema fondamentale, almeno da quelle che sono le esperienze mie e delle aziende con cui ho rapporti, non è tanto il problema di produzione. Produzione c'è, ne riusciamo a fare, il problema è essere pagati. Questo è un paese in cui da anni non si riesce ad incassare nei tempi giusti le somme giuste. Ed è un paese in cui ultimamente Equitalia ha iniziato un'azione vessatoria e ritengo anche terroristica nei confronti dei cittadini. All'italiano non tocchiamo casa, moglie e macchina. Il resto tocchiamo tutto. Dopodiché ovviamente questo si è rivolto nelle contrazioni di consumi. Le aziende non riescono ad incassare i loro soldi. Siamo a livelli di 180, 190, 200 giorni. A fronte di questo le banche... Ma lei parla dei crediti con la pubblica amministrazione o di cosa? No, in generale. Troppo spesso la pubblica amministrazione trasferisce all'azienda dell'amico questi danni subappalti. I subappaltatori devono fare cassa per questi signori, e ne potrei citare decine di queste situazioni, devono fare cassa per questi signori e anticipano il denaro. Quando arriviamo a scadenza dei 150 giorni, che oramai è lo standard, ti scrivono 2 righe e ti dicono non abbiamo i fondi, dilazioniamo di 90 giorni. Gli istituti di credito, dove necessariamente hai anticipato fatture, ricevute bancarie, eccetera, ti chiedono i rientri e le aziende cominciano a chiudere. Grazie. Voglio chiudere con un altro intervento, l'ultimo. Sì, grazie. Alfonso da Prato, buonasera. sono in onda? Sì, prego. Dunque, volevo dire due cose semplicissime. Una è questa. Io vi ringrazio perché ci siete. Perché ci siete e nel modo in cui ci siete. Perché il vostro è un canale di comunicazione, credo che sia di informazione, diciamo. È un'informazione che è indispensabile in questi momenti, è indispensabile sempre. E vi ringrazio per una seconda ragione, perché mi avete fatto spesso conoscere i politici che ci amministrano. Li avete intervistati, se posso dire una piccola cosa su un politico che ho sentito nel pomeriggio, il presidente della regione Calabria, Scopelitti o come diavolo si chiama, ecco, posso dire solo questo: mi sembra un essere veramente negativo, bugiardo, perché manipola le parole, prima dice non c'è una cosa, poi invece c'è, la giustifica, ecco, mi sembra proprio quello che un politico non dovrebbe essere. Cioè, grazie Alfonso, grazie, buona serata, chiudiamo con Cesario, grazie, buona serata a tutti, a domani. Guardi, io non parlo perché anche una parola di una persona che non è così importante può significare molto, quindi io non parlo, io aspettiamo domani. Radio 24, la passione si sente.